nel continuare a leggere, come facciamo in questi giorni, il Vangelo della Messa, quel lungo discorso di Gesù che Matteo ne riferisce nei primi capitoli del suo Vangelo, e arriviamo al Vangelo nel quale Gesù insegna il Padre Nostro, cioè i discepoli chiedono di insegnare a pregare, e ecco, e Gesù in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli pregando: non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco, allora io mi soffermerei un po' su questo clima di semplicità che il Signore ci suggerisce nel parlare con il Padre del Cielo, con questo clima di confidenza. Ci viene in mente adesso quando mancano pochi giorni, il 26 giugno, quindi la festa, la memoria, no, di San José Maria, che ci può venire in mente leggendo queste cose qua, l'impatto, la forza, no, di queste parole nella sua anima, no, e queste altre parole del Vangelo. E pensate solo anche l'Abba Pater, no, di questa preghiera di Gesù rivolta al Padre, che usa il modo dei bambini di rivolgersi al papà, Padre, no? E Gesù lo usa proprio nell'orto degli ulivi, no? Quindi in qualche modo nei momenti più difficili. Ci viene in mente quell'episodio della vita di nostro Padre, quando lui si sente un po' schiacciato tra la terra e il cielo, con una missione così grande e pochissimi mezzi, anche suoi personali, dal punto di vista dell'età, della capacità, dell'esperienza. Una missione enorme e molte difficoltà, no? E allora lì su un tram di Madrid riceve quell'orazione così, così grande, è giusto dire riceve, no? Perché è una grazia di Dio, è una grazia che anche noi possiamo invocare, no? Di ricevere l'orazione, no? Di ricevere il dono dell'orazione, che ecco, l'orazione più elevata che lui ricorda di tutta la sua vita, nella quale ha una percezione più profonda e piena di dolcezza, piena di tenerezza dell'essere figlio di Dio. Tu sei Cristo, no? tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, no? Quella preghiera che quella parola del Padre nei confronti del Figlio, che si legge nel Salmo secondo, non a caso noi lo recitiamo il martedì, no? prima della nostra orazione del mattino, come ricordo, no, della nostra filiazione divina, come traccia per la nostra orazione, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. No? Quindi, ecco, e in effetti io ricordo, lo ricorderete anche voi, anche se non l'ho qui sotto mano nella sua letteralità, che parlando della vocazione all'opera, no? Quando in uno dei suoi testi o delle sue conversazioni parlava delle persone che il Signore sceglie come persone che sappiano che è veramente Padre nostro, il Padre che sta in cielo, no? Quindi come un elemento di potremmo dire di garanzia del fatto di avere questa vocazione, cioè la grazia di avere la collocazione in questa famiglia della Chiesa, no? Per vivere, insomma, per lavorare per la vigna, no? Per lavorare per il regno. Quando ci raccontavano, no, anche alcuni dei primi che lo seguivano, che stavano con lui anche quando, ecco, i primi che sono venuti qua a Roma, no? Mi ricordo, non so se era Don Alberto Taboada o Rino Martinez, che raccontavano come, o qualcun altro, o Umberto Fari, insomma, che raccontavano che quando il padre gli diceva: dai, andiamo a fare una gita, andiamo con la macchina, con la briglia o insomma, con la macchina che potevano avere a disposizione, con la 600, no? In quegli anni facevano un giro, andavano poi a pranzare in una trattoria così dei castelli o del. Ecco, e allora, a parte così il gusto che aveva San José Maria di cantare canzoni che andavano di voga in quegli anni, oppure di. E allo stesso tempo mescolarle con parti del rosario. Quindi abbiamo seminato le strade d'Europa, diceva lui, no? Di Ave Meie e di canzoni, no? Però anche quando, ecco, la semplicità con cui facevano la loro orazione, no? E l'orazione di San José Maria così in auto, perché forse non avevano tempo di fermarsi da qualche parte, ma anche, non solo per quello, anche perché così insegnava che noi possiamo pregare ovunque, in qualunque situazione. Così come appunto lui raccontava l'orazione appunto più profonda, più elevata, l'ho avuta su un tram, no? Oppure vi ricordate quando il Signore come lo riempiva delle sue grazie, quindi anche gli donava così delle contemplazioni infuse, così dei doni mistici mentre leggeva il giornale, no? Come a significare che possiamo essere, desideriamo di essere, il Signore desidera che siamo contemplativi in mezzo al mondo, quindi nel bel mezzo delle attività qualunque di ogni giorno. Poi ci può essere questo dono o meno, non è che dobbiamo considerare, non so, che andiamo bene nella vita di preghiera se abbiamo questo tipo di doni, a qualcuno il Signore li dà, ad altri no, ma ama tutti nello stesso modo e magari quelli a cui dà un dono speciale per aiutare altri, no? Perché per arrivare anche ad altri. Proprio in questi giorni leggevo alcune frasi del commento che lo stesso nostro, insomma, il padre, il prelato, il Don Fernando, no, fa della stessa sua lettera sulla libertà, no? Che ci ha mandato, registrato, e a un certo punto lui stesso dice: non ci dobbiamo preoccupare se quando faccio un'ora di lavoro se la offriamo a Dio, poi in quell'ora la testa sta su quel lavoro e magari si dimentica, no, del Signore, si dimentica anche di dire una giaculatoria, ma non è quello che ci deve preoccupare, no? Quindi nella semplicità dell'orazione il nostro fondatore gli guidava la meditazione stando in auto e a memoria, perché non aveva dietro il libro, o forse perché semplicemente a volte dà fastidio a leggere in auto, no? Allora si riferiva, prendeva spunto dal Vangelo, come era sempre abituato a fare, e prendeva spunto abitualmente, spesso e volentieri, da quel Vangelo nel quale, da quel brano in cui Gesù dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho posti affinché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Quel io ho scelto voi e vi ho posti, no? Lo interpretava così, io, ecco, come la vocazione che viene da Dio, e poi dopo la collocazione in un ambito, no? della Chiesa ci dà un compito, quindi anche la vocazione nell'Opus Dei o in altre realtà della Chiesa diventa il dire il Signore a ciascuno di noi: ecco, vai lì, fai questo, non ti metto lì in questo ambiente, in questa famiglia, perché tu possa portare frutto, no? E questo ti metto lì, no? Ti metto in questo posto dell'Opus Dei. Allora noi, e giustamente, quando una persona si fa avanti e dice: ma io forse ho questa vocazione, facciamo insieme con lui un piccolo cammino di discernimento, piccolo o lungo, a seconda. E questo aspetto non lo dobbiamo mai dimenticare, no? Che abbia questa percezione della paternità di Dio, no? Che senta Dio come nostro, come suo padre, che possa chiamarlo papà, no? Che possa avere un rapporto semplice, normale, no? Familiare con Dio Padre, no? E dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci. È bello, molto bello, questa nel Padre nostro tante volte è sottolineato questo aspetto, che Gesù dica, appunto, quando pregate dite così: Padre nostro, quindi usa il voi, no? Cioè, perché evidentemente la paternità di Dio viene vissuta ovviamente a livello personale quando noi ci rivolgiamo al Signore, ma in modo particolare viene vissuta, come dire, nella Chiesa, viene vissuta in famiglia, viene vissuta nella comunità dei credenti, no? È nostro padre perché più noi ci sentiamo figli, più ci sentiamo anche fratelli, no? Ci rendiamo conto che tutti gli altri credenti in Dio sono nostri fratelli, senz'altro, in modo particolare quelli che sono battezzati, perché c'è una comunione particolare tra coloro che hanno ricevuto il battesimo che ci rende figli di Dio, quindi la fraternità cristiana. Fraternità. Però allo stesso tempo questa fraternità si allarga a tutti gli uomini, a tutti gli esseri, sì, a tutte le persone che vengono al mondo, e fra l'altro di tutte le epoche, no? E adesso questo, visto che in questi giorni il pensiero, giustamente, anche dolcemente, no? Ci va al nostro padre, al nostro fondatore, a San José Maria. Mi viene in mente come lui, quando celebrava la messa, poi si confidava e diceva che anche se, anche quando la celebrava semplicemente con l'aiuto di uno di noi che lo serviva, sappiamo che negli ultimi anni della vita celebrava a metà mattina nel cuore della giornata, così, no? Si sentiva circondato da tutte le persone di tutte le epoche, no? Quelle che sono vissute, quelle che vivranno. Quindi evidentemente aveva una percezione, aveva il dono da Dio di avere una percezione profonda di questa fraternità e forse come sacerdote anche paternità nei confronti di tutte le persone di tutte le epoche e poi anche delle creature, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutte le realtà create da Dio, no? E la messa è proprio centro e possiamo dire del cosmo, possiamo dire così, non solo della nostra vita spirituale, ma della vita della Chiesa, no? L'Eucaristia fa la Chiesa, crea la Chiesa, ma anche della storia della salvezza, quindi ci riporta a Gesù sulla croce, sofferente, donato a noi, ma allo stesso tempo esaltato da Dio, no? Che gli dà in quel momento un nome, ecco, che è al di sopra di ogni altro nome, nel quale appunto ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra, no? E raduna tutta la storia. E lui anche sulla croce, Gesù anche sulla croce, tu, così come nell'orto degli olivi hai detto papà, padre, anche sulla croce padre. Nelle tue mani affido il mio spirito, no? E consegno il mio spirito. Quindi noi, ecco, qualunque vicenda della nostra vita, qualunque situazione della nostra esistenza, siamo chiamati a riportarla al Padre del Cielo, sentendoci figli e figli carissimi, ma allo stesso tempo, forse proprio per questo, anche chiamati a partecipare della croce del Figlio, quindi, e della resurrezione. Così possiamo leggere in termini di fede tante vicende quotidiane della nostra esistenza, del nostro lavoro, della preoccupazione per le persone che conosciamo, che ci sono anche in qualche modo affidate, che si affidano anche alla nostra realtà, all'Opus Dei, per essere aiutate a percorrere un cammino di santità nella normalità della vita. Facendo in modo che ricordate sicuramente ve la ricordate quella preghiera che un po' di getto, no? Scrissero, non so se chi, però comunque senz'altro Don Alvaro approvò subito, non so se fece lui a farla, comunque quella preghiera che fu subito pubblicata pochi giorni dopo la morte del padre di Monsignore Scrivà, come lo chiamavamo allora, e fa che io sappia trasformare tutte le circostanze della mia vita in occasioni per amarti e servire con gioia la Chiesa, il Romano Pontefice e tutte le anime, no? Questo, tutte le circostanze della mia vita, dobbiamo assaporarlo perché, e anche in qualche modo insegnarlo, insomma, sono proprio tutte le circostanze della mia vita, quindi tutte, tutte, tutte, no? Anche quelle più impreviste, quelle più antipatiche, quelle che ci può sembrare che non possano essere santificate, no? Pensate che tante persone si trovano ecco, in situazioni difficili. e si confidano con noi, noi stessi possiamo trovarci in situazioni molto complicate. Allora, quella circostanza della vita è una circostanza nella quale io posso rivolgermi al Padre del Cielo con queste parole: papà, padre. Mi ricordo che viene spesso da citare, se parlo di filiazione divina, un episodietto, no? Così un piccolo particolare che raccontava, o forse racconta ancora, un giovane sacerdote che stava lì, insomma, nella segreteria, insomma, aiutava San José Maria negli anni romani. Ricordo che quando Don Manuel Cabello, no, quando quella tertulia del 73, insomma, che ricordiamo spesso, dove il nostro padre in piena forma ci raccontavano i ragazzi italiani tante cose belle, e con molto brio, con molta molta gioia, e lui era lì che la filmavano con i primi così con quegli apparati che avevano ricevuto dal Giappone, i primi videotape, no? E allora lui racconta che quando negli anni 60 Don Francesco Angelicchio aveva a disposizione queste pizze di film, no? Cioè queste che lui visionava per il suo incarico al Centro Cattolico Cinematografico, allora poi gliene prestava spesso una, così la domenica pomeriggio potevano far riposare, no, San José Maria, il quale si metteva lì con loro in quella sala che hanno lì a Villa Tevere e in Viale Bruno Buozzi. Allora, e allora lui, a questo Don Manuel, giovane sacerdote che gli stava vicino, gli diceva: guarda che è molto facile che io mi addormenti, tu svegliami, perché così riesco, se vedi che mi addormento, dammi uno strattone, che così riesco a seguire la trama, no? Solo che lui ci raccontava che poi quando il padre si addormentava non aveva cuore, no, di svegliarla, così riposa, tanto come succede a volte alle persone anziane di fronte a un film, si addormentano comunque, perché staccano, perché si riposano davvero. Però ricorda che una volta la trama, appunto, che lui stava perdendo perché si era addormentato, prevedeva una, cioè si vedeva un bambino che si perdeva in un bosco nero, buio, e allora si spaventa tantissimo e allora comincia a gridare: papà, papà. Allora a quel grido San José Maria si sveglia e gli prende il braccio a questo Don Manuel e gli dice: così, così grido io nella mia orazione. Quindi è una confidenza imprevista, grazie appunto ad una scena di un film, papà, papà. E a me sembra che anche quello che leggevamo domenica, e su cui sicuramente siamo tornati, perché è un Vangelo molto rassicurante, molto consolante, quello delle parabole sul regno che fanno riferimento al seme, no? Gettato nel terreno. Leggevamo appunto: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorme o veglia, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo subito gli manda la falce, perché è arrivata la mietitura, no? Quindi Gesù, con la sua capacità di amare la creazione, la natura, che lui stesso ha ha creato come sapienza di Dio, no? Per mezzo di Lui sono state fatte tutte le cose, no? E quindi chi meglio di Lui, della sapienza di Dio incarnata, conosce l'universo e il suo segreto e il significato, come vediamo in queste parole, anche divino che hanno queste realtà terrene, il significato di svelamento delle realtà più soprannaturali, no? Ecco, Gesù ci insegna la terra e ci insegna il segreto della terra e ci insegna il segreto del cielo. Quindi questa anche queste parabole del regno le possiamo leggere sotto la luce della filiazione divina, sotto la luce del Padre nostro. A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, con quale parabola possiamo descriverlo? Come un granello di senape, ci diceva Gesù, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. A me veniva in mente, a proposito di queste parabole di domenica, ma anche di, ecco, anche del Padre nostro, che quelle parole che il Papa Francesco dice alla fine dell'Evangelii Gaudium, per dare speranza anche nelle situazioni che possono sembrare magari più faticose nell'apostolato della Chiesa, che è la risurrezione di Cristo che produce questi germi, no? Che poi crescono. La fede significa credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività. Significa credere che Gli avanza vittorioso nella storia insieme con quelli che stanno con Lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Crediamo al Vangelo che dice che il regno di Dio è già presente nel mondo e si sta sviluppando qui e là in diversi modi, come il piccolo seme che può arrivare a trasformarsi in una grande pianta, come una manciata di lievito che fermenta una grande massa, come il buon seme che cresce in mezzo alla zizzania e ci può sempre sorprendere in modo gradito. È presente, viene di nuovo a combattere per fiorire nuovamente. La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo, e anche se vengono tagliati ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato in vano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva, e possiamo pensare a San José María quando festeggeremo la sua festa dopodomani. Ricordiamo il giorno in cui, così anche dopo un viaggio burrascoso, è arrivato a Genova e poi è sceso fino a Roma, e quella notte in preghiera davanti alla finestra accesa del Papa che stava lavorando là, si è fermato tutta la notte a pregare per il Papa. Questo è segno di come noi dobbiamo essere uniti al Papa e ascoltare la sua parola. E come quel seme, appunto, che lì nella Spagna aveva già dato diversi frutti, però qui in Italia cominciò allora, no? Però in generale, come, ecco, lui stesso San José María diceva: il Signore ha donato a me di vedere cose che altri fondatori non hanno visto nella loro vita, cioè tanti frutti, ma dobbiamo interpretarli come quello che sono, come un'azione di Dio a cui dobbiamo corrispondere con umiltà. E quando non vediamo questi germogli, perché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza e anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Questa certezza è quello che si chiama senso del mistero, e sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo, no? Come fa riferimento al Vangelo di Giovanni, la vite e i tralci. Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando, e così via. Questi sono gli ultimi passi dell'Evangelio di Gaudium, dopo aver incitato tutta la Chiesa a ripercorrere strade di evangelizzazione, no? E a uscire per arrivare a tutti. Poi ci dà questi punti di serenità, e questa serenità della filiazione divina, che se volete possiamo, e così concludiamo la nostra meditazione, anche prendere da quella beatitudine, che è la beatitudine della mitezza, beati i miti, perché avranno in eredità la terra è un'espressione forte in questo mondo che fin dall'inizio è un luogo di inimicizia, dove si litiga ovunque, dove da tutte le parti c'è odio, dove continuamente classifichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini, perfino per il loro modo di parlare e di vestire. Insomma, è il regno dell'orgoglio e della vanità, dove ognuno crede di avere il diritto di innalzarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, nonostante sembri impossibile, Gesù propone un altro stile, la mitezza, quello che lui pratica con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo ingresso in Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro. Sono parole, ecco, sono vari altri punti, alcuni punti brevi, no? Della Gaudete et Exultate, che il Papa conclude con queste parole: reagire con umile mitezza, questo è santità, no? Quindi dice che è una parte della povertà, e dice anche con parole molto forti, no? Che Paolo menziona la mitezza come frutto dello Spirito Santo, propone che se qualche volta ci preoccupano le cattive azioni del fratello ci avviciniamo per correggerle, ma con spirito di dolcezza, e ricorda: e tu vigila tu su te stesso per non essere tentato anche tu. E quando, anche quando si difende la propria fede, le proprie convinzioni, bisogna farlo con mitezza, come ricorda la prima lettera di Pietro. Persino gli avversari devono essere trattati con mitezza, confronta la seconda a Timoteo. Nella Chiesa tante volte abbiamo sbagliato per non aver accolto questo appello della parola divina. Allora noi, nell'ambito della nostra filiazione divina, accogliamo questo invito alla mitezza, questo invito alla certezza della fecondità del regno, del seme gettato per il regno da nostro Signore nella nostra terra personale e nella nostra terra collettiva, possiamo dire così, con il sorriso perenne di Santa Maria.